allora viva la libertà a tutte e tutti. 18 e 40 minuti primi, oggi iniziamo con un po' di ritardo, quindi la trasmissione sarà un pochino più sintetica del solito. Queste sono le ore di religione, trasmissione di teologia estrema ogni venerdì più o meno alle 18:15 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E allora noi dovremmo oggi continuare un po' i discorsi che avevamo iniziato venerdì scorso. Ricordiamo questa lunga cavalcata attraverso il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ci ha portato venerdì scorso intorno ai primi anni 50 del 1800. Ci eravamo arenati sulla biografia del povero Goffredo Mameli, sì, mi pare di ricordare, alla fine della guerra d'indipendenza, e per cui non so bene fin dove riusciremo ad arrivare, però direi di ricominciare da lì, sì, e poi insomma quando sarà l'ora porremo il punto e chiudiamo. Allora, appunto, finita la prima guerra d'indipendenza, Mameli, insomma, un po' abbastanza sconfortato, torna a Genova e da subito inizia ad organizzare, cercare di unificare un po' i tanti modi di protesta che nella città, insomma, si scoppiavano per l'armistizio Salasco e soprattutto per come dire, i limiti di Carlo Alberto e nelle strategie militari. A Genova in quegli anni c'erano due circoli, uno si chiamava il Circolo Italiano, che era diretto da Filippo De Boni e che era appunto su posizioni esplicitamente mazziniane, repubblicane, e che voleva rivendicare da subito l'indipendenza dei genovesi, dichiarando Carlo Alberto morto, non solo strategicamente ma appunto anche politicamente. E l'altro circolo era il Circolo Nazionale, che per quanto fosse anch'esso di natura repubblicana, però diciamo considerava sconveniente da un punto di vista strategico rompere i legami con il re, perché in futuro avrebbe potuto comunque aiutarli militarmente. Mameli ovviamente si schierò con il Circolo Italiano e diciamo lo rese in poco tempo una vera e propria base di reclutamento di volontari. Fece arrivare a Genova i resti della colonna mantovana con la quale aveva combattuto, quindi circa 150.000 uomini armati, e attraverso Filippo De Boni fece giungere a Genova nel 20 settembre del 48 Garibaldi. Nel mese d'ottobre, i primi di ottobre, Mameli divenne direttore di un periodico locale che si chiama Il Diario del Popolo, e che appunto rese immediatamente un vero e proprio strumento di diffusione delle idee repubblicane mazziniane. E il 16 ottobre scrisse un proclama appunto su questo periodico che descrive abbastanza bene la situazione di sconforto di tutti i volontari e i patrioti dell'epoca, genovesi in particolar modo, e recita così: il presente giornale comincia una nuova vita. Noi vi poniamo mano con l'anima agitata dal dolore, dall'ira e dalla speranza, perché ci passano dinanzi agli occhi le migliaia degli inutili martiri e udiamo i gemiti dei fratelli Raminghi e la stridula voce dei retori che vanno ispirandosi alle tombe degli antichi scolastici per comporre inni, trattati politici e panegirici ad uso del carnefice che adatta il collo al capestro. Il paese è oggi nella posizione in cui era prima del marzo, quindi prima della prima guerra d'indipendenza, ovvero schiavo dell'Austria. L'Assemblea Costituente Italiana, ecco il nostro programma quanto alla Costituente Nazionale. Tali suonano, applicate alle attuali condizioni dell'Italia, la parola unità. E quindi appunto anche Mameli partecipa di quelli che erano i principi, come dire, gli obiettivi politici di Cavour, che cominciava a muoversi proprio in quegli anni nel tentativo di creare prima un governo politico di unità nazionale per prima della conquista vera e propria del territorio. Il 21 ottobre diciamo ci fu un problema, insomma, che vide coinvolto anche Garibaldi e che poi cacciò, che comportò poi la fuga di insomma il fatto che Garibaldi lasciò Genova, e praticamente c'era un cappellano militare, che militare dell'esercito reale ovviamente di Carlo Alberto, e tale padre Grillo, che visto sa forse potrebbe anche essere parente perché Grillo è di Genova, che con una trentina di suoi soldati inscenò praticamente una manifestazione davanti al Circolo Italiano proprio mentre si svolgevano le operazioni di arruolamento dei volontari. Le sentinelle reagirono e Bixio e Mameli anche parteciparono al vero e proprio pestaggio del cappellano anche con i suoi soldati. Garibaldi rimase un po' turbato perché aveva capito che forse a Genova non poteva organizzare una vera e propria rivolta, qualcosa di grosso, e quindi a partire da questo evento, almeno così ricorda Mameli, Garibaldi si imbarcò per Livorno, quindi per la Toscana, e creò non poco sconforto, insomma, tra tutti i volontari, molti dei quali erano giunti proprio perché sapevano che sarebbero stati guidati proprio dal grande generale. E quindi in generale poi la situazione a Genova, come un po' in tutto il Piemonte, si faceva sempre più tesa. E il 27 ottobre Mameli dovette, insomma, scegliere, visto che era capo appunto del circolo italiano, si trovò di fronte appunto ad una scelta abbastanza ardua, perché doveva scegliere se invitare tutti i suoi volontari, che allora erano abbastanza numerosi, invitarli all'insurrezione contro gli austriaci e anche contro i Savoia, oppure appoggiare la costituente nazionale che andava appunto definendosi, e decise per quest'ultima, quindi per la costituente. La sera del 27 ottobre Genova fu ricoperta di manifesti appunto inneggianti alla costituente, ma la repressione fu immediata e spietata, e quindi le manifestazioni che scoppiarono la mattina dopo, la Guardia Nazionale non si creò problemi ad aprire il fuoco, insomma, sulla folla, facendo anche diversi morti. E a questo punto Mazzini, vedendo questa vicenda, disse: la misura è colma, l'ora è suonata. E Mameli, insieme a Bixio e ai volontari del circolo, decisero di raggiungere Garibaldi in Toscana, cosa che fecero appunto il 15 novembre. Il 19 novembre arrivarono a Frosinone, passando per Rimini, Cattolica e Fano, e quindi arrivarono appunto presso Roma. Il 15 novembre, come sappiamo, fu ucciso Pellegrino Rossi, nelle puntate precedenti ne abbiamo parlato diffusamente, che era il ministro dello Stato Pontificio. E qualche giorno dopo scoppiò la rivolta di Ciceruacchio, proprio che appunto chiedeva la costituente, un'assemblea costituente a Roma. Pio IX, proprio in seguito a questa rivolta, come sappiamo, si rifugia a Gaeta, e alla fine di dicembre, intorno al 21 dicembre, a Roma cadeva il primo governo, diciamo, repubblicano di Terenzio Mamiani. E Mameli, a capo appunto del Comitato Romano per la convocazione della Costituente, si impegnò a redare un vero e proprio programma politico di questo stesso comitato, i cui punti sono abbastanza espliciti, ve li leggiamo alcuni, era una decina, leggiamo un quattro. Una sintesi. Sì, beh, direi. Il primo è, che è il più chiaro di tutti, è quello che ci interessa di più, è: la sovranità nazionale sostituiva di fatto e di diritto in Italia il principio divino come base del governo. Questo è abbastanza esplicito, come dire. E noi adesso dobbiamo ancora ritornare. Sì, effettivamente. Un programma minimo di quel tipo, ecco. Aveva visto giusto. Poi il secondo punto è: doversi iniziare la Costituente italiana per provvedere frattanto ai bisogni della guerra d'indipendenza, scegliere col suffragio universale i deputati della Costituente, e l'associazione combatterà ogni mandato imperativo come contrario al dogma della democrazia, e la Costituente rappresenta la nazione, e come nessuna autorità è superiore alla nazione, nessuna autorità può imporre legge. Questi sono alcuni dei punti i più chiari. Mentre appunto da Gaeta Pio IX, insomma, lanciava scomuniche a destra e a manca, e soprattutto invitava a non partecipare a queste elezioni, tutto questo appunto non impedì che da Castel Sant'Angelo, per sancire l'apertura delle elezioni, fecero sparare dai cannoni appunto da Castel Sant'Angelo per aprire i seggi. Quindi su un corpo elettorale che era di circa 35.000 votanti della Roma dell'epoca, soltanto 10.000 si astennero, quindi ascoltando i moniti di Pio IX, quindi abbastanza meno di un terzo. E quindi Mameli fu molto fomentato da questo responso. E visto che dopo le elezioni Pio IX non smise proprio di accusare chiunque, Mameli rispose esplicitamente a Pio IX, a tutti coloro che lo seguivano, sulla rivista romana creata all'epoca, che si chiamava Pallade, dicendo questo: l'Europa cattolica vuole che il capo della Chiesa tenga regno temporaneo affinché possa con più lustro e decoro pontificare. Ecco la massima che suona sulla bocca dei bigotti e dei dottrinari, che è quanto dire i figli dell'ipocrisia e dell'egoismo. Questo è una risposta abbastanza esplicita. Poi passiamo, diciamo, andiamo velocemente, insomma, alle vicende della Repubblica Romana, che appunto anche se sono state raccontate nel dettaglio militare proprio nelle puntate scorse, e arriviamo direttamente a quando Garibaldi, nell'inseguire le truppe borboniche, arrivò praticamente a ridosso del regno di Napoli, e nel frattempo le truppe, nel 30 maggio, le truppe del generale Oudinot, quindi francesi, che avevano ricevuto i rinforzi dalla Francia, si erano assestati appunto a Monte Mario. Durante questi scontri Mameli appunto riportò una ferita alla gamba, che peraltro fu una ferita da fuoco amico, da un bersagliere. E quindi fu la famosa, il famoso brano. Ma quello era Garibaldi, però. Ah sì, cioè, confusione. Però a gamba è a gamba. Dice Dodi ce l'ha rimessa. Però se direttamente tutta. Insomma, diciamo appunto Mameli ferito. La storia d'Italia attraverso le ferite al femore. Mameli ferito viene portato all'ospedale Trinità dei Pellegrini, completamente privo di sensi. La ferita fu curata dai medici, che però non si resero conto che c'era un'infezione più profonda che si stava espandendo a tutta la gamba. Quindi dopo pochi giorni purtroppo si resero conto quando era troppo tardi, e quindi la gamba gli fu amputata. Ora Mameli scrive alla madre, dice: sì, un gentiluomo anche con una gamba sola si rimane pur sempre un gentiluomo, certo con due è meglio. Beh, questo, constatazione di fatto amaro. Però appunto, diciamo, Mameli aveva un fisico abbastanza esile ed era anche soprattutto molto stanco dalle continue battaglie di quei giorni, e quindi dopo un periodo di 17 giorni in cui rimase a letto con la gamba amputata, morì nella mattina del 6 luglio del 1849 all'età di 21 anni. E quindi così si chiude la vicenda di Mameli, insomma. Abbiamo visto protagonista di tutti i modi più importanti dell'epoca. Io allora, perché non ti senti più? Ah, parla. Sì. Pronto? Vai. Pronto? Sì, ora sì. Ti eri allontanato dalla fonte. Io volevo solo mettere in evidenza un piccolo aspetto legato alle vicende di questo periodo, che diciamo la scelta di Pio IX di proclamare il dogma della Immacolata Concezione, che è del 1858. Però prima di questo bisogna ricordare un evento in particolare molto importante, del quale però non diciamo nulla. Prima prepariamo il terreno, molto molto molto semplice, dove vogliamo andare. 54, il dogma. 8 dicembre 54. Ah, sì, no, ho invertito io le date, scusate, no, che cretino. 4 anni. Sì. No, perché ho invertito le date. Che poi c'è Lourdes nel... No, sì, appunto. Vabbè, insomma, ci si poteva... Ho invertito le date. E il 54 è l'anno del dogma. E poi curiosamente... appunto, ormai è crollato il nostro gioco, che doveva costruire una suspense di un minuto. Ci perdoneranno. E quindi la bruciamo tutta in un secondo, e cioè che abbiamo il dogma dell'Immacolata Concezione e poi casualmente l'apparizione proprio in persona dell'Immacolata Concezione, che dice: è proprio vero, sono proprio l'Immacolata Concezione. Non sarà l'ultima, perché poi ci sarà tutto una... Ma la Concezione è solo lei, però le Madonne sono tante. Quella di Fatima? Milioni di milioni, no. Come le stelle del famoso Salume. Dei Salumi Negroni. No, che dicevi, scusa? No, Fatima invece non... Fatima non è relativa, sì, è parecchio dopo, però non... Sì, ma è un'altra storia, nel senso che le Madonne, diciamo, sono... Queste Madonne sono poi... Sono contestualizzate, direbbe qualcuno. Sono contestualizzate, geniali sono. Noi ovviamente non diciamo niente. Forse poi portano male, perché arrivano sempre i momentacci. Beh, se no non ce ne sarebbe bisogno, insomma, va tutto liscio. Diciamo che il dogma dell'Immacolata Concezione è un dogma mariano, quindi è relativo alla natura della madre del mitico figlio uomo e anche spirito, però in realtà è sono tre persone, quindi questo spirito è persona, pure padre è persona. È un po' complicato. È un po' complicato. No, non è complicato. Diciamo, la fanno complicata, ecco, mettiamola così. Insomma, la madre deve a un certo punto trovare un senso che non ha nelle scritture e nasce questo culto di questa donna nel momento in cui, essendo il figlio non più un profeta ebreo ma un dio addirittura, nel giro di pochissimo poco tempo dopo la morte questo personaggio viene, diciamo, divinizzato. Del resto ne parla anche il nostro Santo Padre adesso, ecco. In che senso? No, la sua ultima opera letteraria. Sì, sì, lui cerca di chiarire questo aspetto, perché non si conciliano, e tenta di conciliare l'inconciliabile, ma loro sono 20 secoli che vivono tenendo insieme ciò che non può stare insieme, con la colla della teologia, ovviamente, che è magia, semplicemente linguistica, sono frasi che si autosostengono e quindi hanno raggiunto un livello tale di perfezione formale. Uno ascolta una frase e dice: ah, è proprio così. Ovviamente non, il presupposto lì è ovviamente noto, non già Dio, perché Dio in quanto assoluto, problema assoluto, è un altro discorso, è un altro tipo di teologia e non viene presa in considerazione. No, assolutamente crea problemi. È la teologia cattolica che di Dio fa un discorso di un certo tipo e ne deve venire fuori quel pastrocchio. Il risultato finale, ma certamente che ovviamente è vincolato al dogma, cioè o credi che è così oppure credi che è così, non hai alternativa. Tra l'altro non hai alternativa, perché è fuori dalla Chiesa cattolica, non c'è salvezza, quindi tutti quelli che non accettano questo per varie ragioni, o perché credono in altre cose altrettanto strampalate, o perché sono eretici e credono ad altro, e allora non hanno speranza. Insomma, tutta questa vicenda di questo profeta che diventa un dio e poi si sdoppia, si triplica, c'è una commistione con l'entità originaria, perché bisogna tenere insieme le antiche scritture con le nuove, quindi insomma, e viene costruito appositamente man mano, no? Si vede proprio questo personaggio che nasce, cresce, prende forma, cambia di nome e anche ovviamente di aspetto, poi varia nel tempo l'aspetto. All'inizio non dovrebbe avere un aspetto, e quindi per un po' non ce l'ha. Fanno i pescetti, disegnano, fanno insomma delle simbologie, il pastore con la pecorella sulla schiena. E per un breve periodo sono tutti giudeo-cristiani sostanzialmente, quindi tendono a rispettare il divieto proprio del dio originario, che aveva detto: non ti farai alcuna immagine di me. Anche perché come fai a fartela? Esattamente. Poi dopo viene risolto il problema, perché dicono che è uomo, e quindi siccome si è manifestato, l'abbiamo visto, quello è, e lo possiamo raffigurare. E, inventandoselo però, perché non ci sono ovviamente fonti su che non viene descritto nei racconti, ovviamente. Però poi a un certo punto arriva la sindone, quindi. Eh beh, c'è certo, anche un modello. La sindone è un modello basato sulla pittura e certo, però precedenti. Tu perché tu sei malizioso. Già è difficile stare appresso al dogma della Trinità, cioè ci mettiamo a giocare pure con le reliquie. Quelle, insomma, un teologo serio quella roba la disprezza in privato con qualunque, anche un teologo completamente addentro al potere attuale, quindi medievale, diciamo, perché un conservatore non significa più niente, insomma. Ah sì, poi ecco, dicevo, quindi questo personaggio si trasforma e inevitabilmente, siccome questo personaggio qualcuno lo deve aver generato, perché come fatto umano è stato partorito e c'è, insomma, c'è un ricordo di uno che è nato da una famiglia normale di ebrei e si è imbattuto in una vicenda profetica come tanti altri personaggi come lui nel corso della storia, prima di lui anche, ovviamente, che peraltro hanno detto le stesse cose che diceva lui sostanzialmente, perché è un minimo di buonsenso nel mondo antico, era comune a lui, a Confucio e a tanti altri, però ripeto, molti secoli prima, Buddha. E con un certo ritardo vengono fuori questi temi che questo soggetto porta avanti. Muore, abbiamo detto, gli si trasforma in un razzo missile. E il problema ovviamente è la madre, che non è più una donna che l'ha partorito, ma comincia a diventare vergine, poi insomma comincia a diventare come tutte le madri delle divinità precedenti che conosciamo. E, ma non perché c'è un progetto, perché è un automatismo culturale, c'è un problema che viene risolto e viene affrontato da quelle persone. Non c'è nulla di divino, basta togliere ovviamente la menzogna colossale che Dio abbia quella forma, abbia parlato con delle persone, abbia dettato tutto. Cioè, questa cosa non ha più senso, e quindi Dio diventa totalmente appunto un'altra cosa su un piano teologico. Il resto sono chiacchiere che si basano sulla mancanza di conoscenze delle persone che credono e vengono poi costruite e si riproducono in modo da continuare a credere, cioè avendo le orecchie col prosciutto e gli occhi con le lenti offuscate, perché poi uno dopo si rifiuta di credere che ha creduto a qualcosa che non aveva senso, e quindi si crede per caparbia, cioè, diventa un gioco, una trappola della quale poi ognuno è portatore delle sue proprie contraddizioni, che però a dire da come si manifesta la vita comune dei cittadini italiani, che sono tutti al 98% cattolici, non è che sia proprio questo grande successo, questo messaggio di fratellanza, amore. No, a dire il vero, direi di no. Siamo il paese col più alto tasso di criminalità organizzata, un degrado morale pazzesco, cioè veramente evidente, insomma, con problemi di classe enormi. C'è gente che vive come un feudatario e appunto altri, ma milioni, che stanno sull'orlo del baratro, della miseria, come si stava fuori dalle... stupratori seriali che fanno parte del clero, che vanno a fare i responsabili della famiglia per i sindaci. No, ecco, cioè, è una situazione terrificante. Quindi, comunque, la povera signora Maria diventa inevitabilmente, appresso al figlio che è divinizzato, deve essere lei stessa poi una divinità. E comincia un dibattito lunghissimo. La prima cosa è che a un certo punto in un concilio diventa Theotokos, che è madre di Dio. Qualcuno già ridacchia dei teologi dell'epoca, perché dicono c'è un problema a dire Theotokos proprio, no? Linguisticamente qualcuno, il greco giustamente dice, noi siamo concreti, Theotokos vuol dire madre di Dio, poi se Dio vuol dire una certa cosa, nell'ambito di questo discorso, dell'ambito di discorso monoteista, no? Perché uno dice, sai, c'è un ambito politeista, mamma, zia, ma quante ne vuoi di parenti? Ma qui avete detto che c'è una divinità sessuata, increata, ingenerata, che c'ha la madre, no? Onnipotente, capito? E quindi, ma che vuol dire? E quindi si va avanti così. Da quel momento la buffonata prende un senso che assurgerà a una figura materna di divinità. Quindi il monoteismo è saltato, perché già erano tre e diventano quattro, perché c'è pure la madre. Quindi abbiamo questa strana, perché c'è un allargamento, c'è un padre, c'è un figlio, poi c'è lo zio spirito che non si sa bene chi è, che però viene, non viene, è importante, però scompare perché è incontrollabile. Comunque poi Ippi deve essere, diciamo, perché è lo zio scapestrato, è lo zio un po' matto, capito, lo spirito. Che si vede e non si vede, insomma. Quindi viene fuori questa signora che diventa un delirio teologico, cioè la madre di Dio, da ridere, cioè viene tutta il fiorfiore dei cristiani di ogni tempo che ragionavano su questo erano turbati dal riscontrare che c'era. No, ecco, devi riprendere quell'altro, quello il signore ti sente ogni tanto e dice, ecco. Cioè ci hanno telefonato che non si sente niente? No, adesso l'ultimo 3 secondi. Ah, spero che quando sei troppo violento nei confronti della Trinità, secondo me ci sono dei problemi. Io non sono violento, cioè non dico... Io ripeto sempre che se si vuole credere uno si deve documentare. Se scopre che quello in cui crede ha dei problemi enormi, insomma, si prende atto, si sposta la credenza a una divinità un po' più seria, tutto qua. Non dico mica... No, vuoi credere... No, ma io sono d'accordo con te, lo sai, mi riferivo all'angelo che era passato, violenza, che perché interrotto. Cioè, si deve parlare, si affronta... Quindi questa signora diventa... questo strano personaggio che è una quarta divinità, in una forma ovviamente sempre mal digerita anche dal clero. Tant'è vero che, arrivati a questo ultimo dogma, ultimo in ordine di tempo nell'Ottocento, perché poi se ne aggiungerà un ulteriore, ancora più folle, nel 1950, che è l'assunzione in cielo. Tant'è vero che adesso c'è un movimento sotterraneo, trasversale, che attraversa tutti i mariologi delle alte gerarchie devote, diciamo, della Madonna, che vogliono sostenere il quinto dogma, no? Quello di corredentrice insieme al figlio, che è, diciamo, la fine del progetto. Non serve per noi che ci occupiamo di studi di questo genere sapere che il cattolicesimo è de facto proprio un politeismo, e ha funzionato proprio per questo, nella sua ambiguità di discutere sempre a partire da un'idea di monoteismo, che, diciamo, ovviamente è quella politica, quindi l'aspetto politico, e poi però ha dovuto concedere l'elemento sociale, inevitabilmente, la polifonia dei bisogni, come dire, del sentimento che ciascun soggetto poi esprime nella sua vita, a cominciare dal fatto che, per prima cosa, c'è un sentimento maschile e un sentimento femminile. Quindi, su un piano proprio teologico, è inevitabile che la costruzione di questa donna, che diventa divinità, diventa inevitabilmente una divinità necessaria a sostituire, assolve a molte funzioni, ovviamente, nel corso del tempo. Inizialmente deve sostituirsi alle Iside, Artemide, che sono, tra l'altro, dei templi, parliamo del tardo antico, ancora frequentatissimi, all'inizio sono ovviamente punti di riferimento dove avvengono lì dei riti con pellegrinaggi che sono, da un punto di vista, come dire, estetico, a guardarli così da lontano, del tutto identici ai pellegrinaggi a Santiago de Compostela di 1000 anni dopo. Non cambia nulla. Oggi no, perché un po', diciamo, di autenticità è saltata. Però all'epoca chi compiva il pellegrinaggio ci credeva, sia che andava al Tempio di Artemide che a Santiago de Compostela. In ambedue i casi era magia, ma cioè, l'importante è che chi crede e va là, cioè, si motiva, e questo sentimento può anche rinvigorire. Cioè, poi nel pellegrinaggio, il pellegrino, l'importante, non la divinità. Il pellegrino sta anche bene, nel senso che se sta male ed è incurabile muore nel Medioevo, e fino a 50 anni fa moriva comunque, non ci sono storie, non guarisce. Se si attivano dei processi di difesa del corpo stimolati da questo tipo di placebo, quindi da una convinzione di essere guariti, il corpo umano ci dice che questo avviene, però non c'è niente di esogeno, è tutto endogeno, e quindi è assolutamente scientifico, nei limiti del fatto che la scienza non è in grado ancora di chiarire questo meccanismo, perché è a livello altissimo del funzionamento della nostra forma umana. Però abbiamo intuito che questo esiste. Assolutamente, parlo semplicemente della gravidanza isterica. Il desiderio sommo di avere un bambino in alcune donne produce un'alterazione del sistema, diciamo, riproduttivo, che arriva a trasformarsi come se Etsideus, non da retur, come se Dio non ci fosse. No, come se Dio ci fosse, no, come se il bambino caso ci fosse, come, in questo caso. E soprattutto anche se Dio ci fosse nel nostro. Quindi, siccome c'è la gravidanza isterica, che è la prova del fatto che il nostro metabolismo può risentire e addirittura produrre un'apparenza di rigonfiamento, e poi dentro non c'è niente. Oggi uno fa una ecografia e dice: signora, guardi che lei, insomma, si è convinta di una cosa, ma qui non risulta. All'epoca non si vedeva dentro, insomma, bisognava aspettare un po' per capire che non c'era niente. E quando si verificavano, ovviamente, questi casi, moltiplicato per decine di migliaia di pellegrini che si recavano ogni anno in questi luoghi, potete immaginare. Allora, quello che voglio dire io, quindi, questo, il meccanismo di guarigione, quando avviene, è perché intanto la malattia non è grave, anche se poi invece ci sono anche dei casi attualmente documentati in letteratura medica di regressioni di cancri della tiroide, cioè, assolutamente, come vengono se ne possono andare, però ripeto, non c'è nulla ovviamente di esogeno, ma è tutto un problema di come funzioniamo noi. Stiamo capendo, oscuro in, però, in buona parte, però in questi, però, ultimi, sappiamo che c'è. 40 anni abbiamo fatto dei grossi passi avanti, perché abbiamo mappato il genoma, abbiamo individuato il funzionamento quasi di base proprio della struttura della nostra natura umana, da dove parte tutto il segnale. Abbiamo il codice, il linguaggio di base, ATTG, che poi è Gattaca nella forma del film, diciamo. In realtà no, lui ha fatto quello perché suonava meglio, ma la sigla purtroppo è un po' meno esotica, non è così eufonica, anzi è più cacofonica. Però tornando quindi alla Nostra Signora Varie di Lourdes, di Guadalupe, cioè, quante ne volete, appunto, perché ovviamente è non solo un soggetto fondamentale per il risolvere la questione, la domanda che c'è in quel momento di un riferimento del divino in forma femminile. Quindi questo è già il primo dato. Poi questa cosa prende una forma e gli si dà un ruolo che viene costruito e narrato, al quale contribuiscono inevitabilmente, come motore fortissimo e un propulsivo enorme, i francescani, che sono ovviamente, insomma, io credo, questo nel periodo che stiamo analizzando, no, nel periodo dopo Francesco, che si dedicano ovviamente a un culto delle immagini, a un culto popolare, a una santità bassa, rozza per la gente qualunque, anche ovviamente andando totalmente contro il loro fondatore, il quale aveva tutta un'altra visione ed era un personaggio molto diverso da come è stato dipinto, filmato, raccontato e ovviamente agiografato e quanto altro dal punto di vista puramente di strumentalizzazione religiosa da parte del cattolicesimo. E quindi lui era tutt'altro. Un giorno ne parleremo, ma non oggi, perché insomma ci dedicheremo una puntata, insomma, su Francesco. Nella prima edizione io credo di aver fatto un po' una puntata, queste, sì, vicende, però ci si può ritornare. Ah beh sì, c'è gente che ci ha perso una vita di studi. No, io ovviamente non sono un francescologo, ho delle mie fonti, o insomma vi racconto qualcosa, non l'ho studiato io di persona direttamente, se non la santità, sì, quella sì, ma non la sua in particolare, in generale. Poi mi si sono confrontato, poi insomma, qualcosa si può dire. Insomma, la mamma invece di cui parliamo passa attraverso questo periodo e viene costruito questo personaggio che conosciamo oggi lentamente, che poi assume varie forme. Ora adesso non possiamo entrare nel dettaglio perché poi, cioè, tutti squarciano il petto, i coltelli vengono più man mano, poi il dolore, bisogna entrare in una fase successiva, c'è la questione del Concilio di Trento, quindi c'è una chiesa ferita, c'è un dramma, viene metabolizzato all'interno sia tutto il discorso dell'Inquisizione, quindi la violenza che c'è contro l'altro cristiano, ovviamente. Beh, che certo, sono tutti riformati, ma anche internamente un senso di sconfitta c'è, perché a livello gerarchico si percepisce che intorno tutto sta cambiando e certamente è molto molto faticoso, bisogna, come dire, ricominciare a rievangelizzare ciò che era stato conquistato con tanta fatica, distruggendo, massacrando, convertendo, battezzando, tutto quello che sappiamo. Insomma, basti ricordare cosa ha fatto anche Carlo Magno, i battesimi forzati di mezza Europa, insomma una violenza. I poveri ungheri, i sassoni, i vitichindo, insomma ha voglia, chi più ne ha più ne metta, insomma, di questo, e a cominciare dai secoli precedenti. Quindi si ritrova in una fase in cui ovviamente le figure incarnano tutto questo, perché devono diventare il tramite facile, proprio l'interfaccia con il popolo. La madre di Gesù è fondamentale, perché poi diventa un oggetto importantissimo nelle mani del potere maschile, clericale, maschile ovviamente a parole, e soprattutto del celibe ancor più a parole, che la utilizza come un enorme strumento di repressione della donna all'interno della famiglia, costruendo un modello di riferimento che si piega ovviamente alla volontà divina, che è chiaramente maschile. E lì viene inventato questo personaggio definitivamente, che si modernizza e a un certo punto torna nell'Ottocento, importante, fondamentale. Non solo lui, ma anche il figlio, c'è tutto il Sacro Cuore di cui abbiamo già parlato. Però la domanda è: come mai proprio questo personaggio è proprio in Francia, questo momento? Ecco, la domanda è quello che abbiamo sempre detto: c'è bisogno di far tornare in Francia, nella maledetta Francia illuminista, un segnale politico e un segnale anche simbolico di elementi che trascendono gli eventi e che vanno a marcare in questo caso proprio il territorio. E finisce a Lourdes perché ai confini, ai Pirenei. Beh, lì è un po' imprevedibile il progetto, perché loro non possono, come dire, costruire da zero una visione. La Chiesa ha un continuo di segnalazioni da sempre di pazzi che vedono, parlano, insomma, così. E nel 90% dei casi li liquida sempre senza che si sappia nulla, perché sono appunto già da essa stessa chiariti come folli, pazzi. In realtà lo sa anche il parroco locale, che prima di avvertire il vescovo e comunicare cerca di sedare. Quando però ovviamente le questioni si fanno un po' più delicate, e comunque di questi casi ve ne sono molti, si fa maggiore attenzione. Allora appunto interviene il vescovo, la diocesi. Poi partono le notifiche e si costruiscono degli archivi dove ci sono delle informazioni, vengono seguiti i casi. Se ovviamente un caso, per un quid, trova delle interconnessioni interessanti, si attiva un processo che diventa quello che conosciamo, cioè si costruisce e si indirizza la visione, che ha un'origine ovviamente reale. Quindi la Bernadette Soubirous è una che ha vista veramente la Madonna. Nella sua mente... diciamo, lei ha avuto una visione, però siccome tanti giovinetti in quel periodo, bisognerebbe poi qui entrare un po' nel dettaglio e capire come viene costruita la dottrina educazione cattolica a livello popolare, perché qui parliamo di una figlia di un carbonaio, insomma, un legnaio. Poi sui Pirenei del 1850. Come si chiamano quelli che... Fabbro. Boscaiolo, carbonaio, non mi ricordo, insomma, comunque ha a che fare con legno il padre. Diciamo, non era un barone. No, ecco, con un castello. Non è il barone dei Subirucchi, ecco, no. Capito? O la figlia, insomma, che questo non è casuale. No, per niente. Ormai non più. Prima erano tutte nobili perché erano tutte anoressiche, quindi impazzivano, c'era la madre pazza, quindi stavano deliravano, intellettuali, facevano quindi le varie sante medievali. Adesso una giovane dell'Ottocento non vede più altro la Madonna, da fare. Ben altro da fare proprio. Si dedica a attività che il romanzo narra in quegli anni con ampia documentazione. Quindi restano i pastori, i carbonari e la gente del popolo, che poi fa molto presa perché c'è purezza, no? Quindi questa ragazzina vede insomma, dice, parla, e a un certo punto viene indirizzata. Tant'è vero che dichiara di aver quando poi dopo apparirà, 4 anni dopo, il dogma. Casualmente, che cosa dice la signora? Gli dice: sono l'Immacolata Concezione. Prima però che sia apparso il dogma. Dopo. Sì, sì. Cioè, nel senso, c'è un effetto causa rovesciato. E quindi il quadro, diciamo, che noi andiamo a descrivere è che l'Urdes e il dogma, che sono associati, sono costruiti in quel momento selezionando, perché avevano probabilmente un'altra ragazzina o un ragazzino folle pure nel nord della Germania o nel probabilmente in Italia, in Sicilia, Portogallo. Cioè c'erano varie segnalazioni di questa gente che non possiamo, ripeto, scendere troppo nel dettaglio, però hanno selezionato questa che poteva avere un ruolo molto importante, perché la Francia significava costruire all'interno della Francia un percorso. Quindi anche certo di vivo. Ma anche proprio materiale, perché lì dentro tu fai arrivare attraverso la Francia, in quel luogo della montagna, un itinerario di pellegrinaggio. Quindi, che poi in realtà è da dove parte il pellegrinaggio per Santiago, perché delle basi di partenza è poi in si Francia. Passa di là. Sì. Da noi c'è la via Francigena, insomma, che poi passava per tutta la costa Toulouse, francese, quella attuale Costa Azzurra, fino a Perè, e poi si attraversava, si svalicava e si arrivava a Santiago. Quindi, diciamo, c'è bisogno di costruire un santuario, marcare il territorio, fare un caso mondiale, un evento che segnasse la storia, in un momento di crisi che è quella dei rapporti con la Francia, che sta mutando. La Francia è un paese importantissimo perché portatore di due elementi: la sua cattolicità, che va recuperata ovviamente, specie in questo periodo, assolutamente, c'è bisogno di allenare. E anche ovviamente proprio l'essere il negatore fondamentale di tutto questo, avendo prodotto gli effetti nefasti della rivoluzione francese, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Quindi è un soggetto, questa Madonna di Lourdes, importantissimo, perché il mondo sia a conoscenza di un fenomeno che deve ripristinare a metà dell'Ottocento, quando la situazione, abbiamo detto, è quella di crisi estrema, uno scenario di riaffermazione di un mondo ultraterreno, di un modello di realtà arcaica che funzioni attraverso una seduzione di quello che è il sistema della pietà popolare basato su tutti gli elementi magico-religiosi di più basso profilo, e quindi l'uso di una bambina minorenne, analfabeta, che e che viene istruita non perché gli dica tu devi dire questo, neanche così il modello è, ma ti ha detto questo, e gli viene detta la frase sì, mi ha detto questo. Questo è il modo proprio, diciamo, più evidente. C'è dopodiché una certa raffinatezza, sì, perché questo è fatto in modo che poi, siccome loro sanno che da tempo hanno fatto processi, hanno accusato, quindi hanno fatto verbali quando potevano, non, tu non sapevi neanche perché ti processavano, venivi preso e, però sanno che alla rilettura di un verbale, se io le metto in un certo modo le cose, non si capisce più chi ha detto cosa, quando, come, perché. Quindi oggi, quando si va a ricercare, si scopre che se letto ad un certo modo tutto sembra assolutamente così. Viene, si prende il librino, no? Io parlo perché conosco questi testi, quindi qui sto parlando per addetto ai lavori. Si prendono i librini e si legge, quei pochi che poi riportano, perché ormai sono i librini, sono tre pagine, è apparsa, cioè sono già totalmente, si fa scomparire tutto totalmente tutto quello che sono le foto. Quando, se uno oggi vuole, oggi proprio nel XXI secolo, rifare questo percorso, intanto ha una grossa difficoltà, ma insomma se riesce a risalire le fonti e fa il percorso, si scopre che ci sono tutta una serie di incroci strani, più si sale, più fitti, dove ovviamente lo snodo svela un intervento tutt'altro che, come dire, miracoloso o ancor più trascendente. Questo è quello che avviene. Quindi Pio IX si gioca la carta della Madonna, che è una carta, è un jolly altissimo livello, è un disegno che agisce su più fronti, politico, internazionale e ovviamente culturale, quotidiano. La donna torna al centro, la Madonna torna al centro di tutto, la famiglia, e quindi attorno a tutto questo si ricostruisce come ultimo baluardo, perché poi questo diventerà un elemento fondamentale, perché il marito operaio va in fabbrica lontano, la moglie sta a casa con 76 ragazzini in condizioni da fame, e quindi deve questo a pochi anni delle suffragette in Inghilterra, per capire un po' anche il comportarsi in un certo modo, ed è quella che trattiene, diciamo, il marito all'interno del mondo cattolico. Questo lo sto dicendo in anticipo, nel senso che questo alla fine dell'Ottocento sarà il chiaro segnale, il luogo dove lavorerà la politica cattolica per sottrarre al socialismo della fabbrica, dove il marito avrebbe poi trovato lì chi gli parlava, gli dava un'informazione, magari gli insegnava a leggere e scrivere, e poi a leggere appunto addirittura un volantino, un libro, e quindi a organizzarsi e a prendere visione di un mondo completamente diverso, quindi a perdere quella cultura familiare che era il modello feudale su cui ancora si basava. La donna diventa questa calamita che riporta sempre indietro, noi lo vediamo in tante forme di narrazione popolare, e ovviamente lo vediamo nel cinema, quando il cinema è stato controllato, nella produzione italiana in particolare, con le maglie strette del setaccio dalla Democrazia Cristiana, e prima ancora ovviamente dal fascismo, ma che per altre ragioni non parlava. E poi abbiamo visto invece il crollo di tutto questo nella metà degli anni 60, e quindi una mutazione profondissima proprio di come viene rappresentata la famiglia all'interno del cinema, per esempio. Questa è una nota a margine che però è molto interessante, perché ci fa vedere quello che noi stiamo dicendo, che è durato fino agli anni 60 del Novecento in modo visibile e sottoposto alla cappa della repressione, della censura. Ancora c'è, però qua e là qualcosa, qualche crepa è filtrato, ci sta. Sì, ecco qua. Va bene, allora sono le 19:25, direi di concludere qui la puntata dell'oggi. Beh, torniamo un minuto sulla terra. Dire. No, che l'altra volta avevamo seguito. Abbiamo cominciato un po' tardi, ci rubiamo 5 minuti. Che ce ne andiamo. L'altra volta avevamo seguito le vicende terrene del neonato Stato Stato piemontese. Neonato, purtroppo, neonato no. Purtroppo no. Però, diciamo, reduce dalla prima guerra d'indipendenza, abbiamo visto la politica interna e in particolar modo seguendo le vicende di Cavour, che ne è stato l'artefice principale. Adesso vediamo brevemente appunto la politica estera, che fondamentalmente negli anni da 1953-1955, cioè l'episodio noto come la guerra di Crimea, che prende spunto da circostanze internazionali, cioè la crisi dell'impero ottomano, di cui cerca di approfittare la Russia, occupando appunto mirando a occupare la Crimea, che sta nel Mar Nero. E quindi comunque quello che ci interessa è che Cavour Poi siamo nello stesso periodo. Sì, è proprio 53-55, esattamente lo stesso periodo. Di Lourdes, esattamente quando la Madonna appare. Nel frattempo il mondo è coinvolto in una guerra che vede protagonisti l'impero turco, quello russo, quello inglese, quello francese, l'Austria nel mezzo e l'Italia che il Piemonte che cerca di approfittare di questa bagarre per cercare di strappare il Lombardo-Veneto all'Austria. Quindi fino all'ultimo ha sperato che l'Austria si alleasse con la Russia, invece non è andata così. Comunque, diciamo, andando brevemente, che intanto nel 1854 per esempio torna in Italia Garibaldi dall'esilio dopo, da cui era stato mandato dopo la Repubblica Romana, quindi anche l'anno in cui torna Garibaldi in Italia. E poi, diciamo, la guerra di Crimea vera e propria, che viene decisa un po' rocambolescamente, sempre all'italiana, perché il re Vittorio Emanuele, che comunque aveva sempre odiato lo statuto albertino nel quale si riteneva costretto da questo Parlamento invadente, aveva ipotizzato e aveva trattato in realtà segretamente con la Francia un intervento piemontese all'insaputa del Parlamento, che però viene a saperlo. Quindi la guerra di Crimea, che meriterebbe un approfondimento cinematografico, spero. Ma ce n'è uno musicale, attenzione. Un'inaspettata sorpresa musicale. Comunque, dicevamo, Cavour a un certo punto, detta brutalmente, anticipa il re dal suo intento segreto, lo fa approvare dal Parlamento di fatto, e quindi parte nell'aprile del 55 un contingente di circa 18.000 uomini guidati da Alfonso la Marmora, diretto verso Balaclava, nella quale muore di peste il fratello di la Marmora, cioè Alessandro la Marmora, che era quello che era il fondatore dell'Ordine dei Bersaglieri, che aveva lui proposto in un opuscolo del 1835 titolato Proposizione per la formazione di una compagnia di bersaglieri. Il corpo dei bersaglieri. Il corpo. Vabbè, ormai confondo. I frati bersaglieri. Una compagnia di bersaglieri e il modello di uno schioppo per suo uso, perché è progettato anche un fucile avancarica. Sì, sì. L'anno dopo viene appunto i bersaglieri, mi viene sempre l'ordine. Diciamo. Il corpo dei bersaglieri viene fondato e muore appunto la compagnia dei bersaglieri. A Balaclava muore il 7 giugno e la Marmora, appunto fratello maggiore della Marmora, di cui poi ci occuperemo in seguito. Il 16 agosto, sempre del 55, avviene in realtà l'unico episodio d'armi in cui è coinvolto questo contingente italiano, sempre a seguito di un attacco russo. La storia dei nostri contingenti mandati altrove inizia l'Italia. È lunga e ingloriosa. È ingloriosa sempre. No, questa tra l'altro doveva essere una guerra che doveva rilanciare le glorie dell'Italia, e questo episodio, essendo l'unico e tutto sommato inattivo, è anzi una delle guerre che viene vantata, perché appunto avendo fatto pochissimo c'è stato anche poco modo di mettersi in cattiva luce. Quindi c'è questo attacco appunto dell'esercito russo sul fiume Cernia, viene il piccolo contingente italiano resiste e con un danno di circa una quindicina di morti più o meno, che è il contributo che il Piemonte dedica, insomma, che il Piemonte perde in questa guerra, anche se poi in realtà ne muoiono circa 2.000, ma appunto per il colera che imperversava in quel periodo, non solo per le truppe italiane. E quindi grazie a questo episodio, che nelle intenzioni in realtà avrebbe dovuto lavare l'onta di Mantova, ma soprattutto nelle intenzioni di Vittorio Emanuele, che voleva addirittura far vedere di essere un grande re generale, addirittura aveva chiesto a Francia e Inghilterra, che erano alleate, di poter partecipare, ma insomma è stato accantonato proprio. Poi vedremo appunto, magari noi non giochiamo a soldatini. No, mi ha detto guarda, stia a casa. Peraltro lo stesso Vittorio Emanuele, che ha fatto più volte vergognare Cavour, che per esempio gli ha imposto in occasione dei viaggi a Londra e a Parigi durante la guerra, per esempio gli ha fatto tagliare i baffi di almeno 10 centimetri perché era impresentabile. Comunque ha fatto insomma abbastanza preoccupare Cavour. Comunque rispetto, e concludiamo con questo episodio di Balaclava, che ha coinvolto ovviamente gli eserciti inglese e russo, quello italiano è stato solo, diciamo, una costola di questa battaglia, a proposito della quale c'è appunto l'ultima, la chiusura musicale evocata. Sì, che è ancora più bella perché è del tutto fuori contesto rispetto al nostro percorso, quindi ci piace moltissimo. E il brano che ascolteremo è The Trooper degli Iron Maiden. Del resto ricordavamo prima che arrivaste voi, c'è stata una epica trasmissione estiva sul in omaggio anche al nostro pubblico di metallari, grande successo, grande successo. Beh, quindi noi chiudiamo con questa, è un po' più soft come metal, però, beh. Però sempre piacevole. Che è il nono singolo degli Iron Maiden e fa parte dell'album Peace of Mind. Citiamo questa canzone perché racconta appunto la storia di un soldato inglese che viene mandato nella guerra di Crimea. Però questa canzone è ispirata ad una poesia di Alfred Tennyson, o meglio noto come Lord Tennyson, che era un poeta laureato, che all'epoca, in epoca vittoriana, significava un poeta di corte, praticamente poeta ufficiale, erede di Wordsworth. Questa, diciamo, Lord Tennyson, l'altro contatto con rock, diciamo, di Lord Tennyson è che lui viveva all'isola di Wight. Diciamo questa cosa, piccola curiosità, insomma. E però ci sta ancora più simpatico perché si era sempre professato agnostico, e il figlio ha scritto un libro appunto sulla sua vita, rivela che sul letto di morte non aveva rivolto preghiere appunto a nessun dio, bensì a Giordano Bruno, dicendo queste esplicite parole: la sua visione di Dio è in certi modi la mia. E poi ci ha lasciato. Quindi ci sentiamo The Trooper degli Iron Maiden. E bene, bravi. I legami tutto torna. Comunque, questa cosa incredibilmente tutto torna. Vi salutiamo con The Trooper. L'appuntamento è venerdì prossimo, sempre 18:15. Ora di religione, @autistici.org, la posta elettronica. Sul sito ondarossa.info invece le puntate precedenti, per cui anche questa a stretto giro di posta. Just let it go.